Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Chiese convertite in moschee, gay relegati in aree riservate, segregazione e sharia di Stato. L'Olanda una volta era il paese più libero d'Europa, ma di fronte all'invasione islamica il multiculturalismo è destinato a fallire. Amsterdam. Al numero 114 di Jan Azenstraat c'è il cuore della moderna schizofrenia olandese. È lì che si trova la moschea El Tawhid, il monoteismo, una delle più popolari in città. Un luogo unico al mondo che soltanto in Olanda potrebbe esistere. Siamo nel quartiere operaio di Old West, che qui chiamano South Bronx. La moschea di proprietà saudita divenne nota il 2 novembre 2004, quando Mohamed Bouayeri, un giovane islamita che frequentava il luogo di preghiera, tagliò la gola al regista Theo van Gogh, discendente del fratello del celebre pittore Vincent. Qui pregava Samir Azzouz, condannato per 8 anni per aver progettato l'assassinio di Geert Wilders, politico anti-islamico. L'imam è un egiziano che gestisce un ristorante dall'altra parte della strada e la moschea offre lezioni in olandese per i molti convertiti all'islam dalla pelle bianca. Ma anche prima che Bouayeri tagliasse come una pagnotta la gola di Van Gogh, la moschea era assurta alle cronache per aver venduto libri che giustificano l'uccisione degli omosessuali e la lapidazione delle adultere. È una delle moschee che Wilders vorrebbe chiudere. Il fallimento del multiculturalismo è l'incontro fatale fra la perdita di Dio e la globalizzazione. Ci spiega Joost de Beus, filosofo della politica all'Università di Amsterdam, laburista. Dati dell'ufficio centrale delle diocesi olandesi dicono che tra il 1973 e il 2002 oltre 240 chiese cattoliche sono state riconvertite in moschee, palestre o showroom. La chiesa protestante e il seminatore di Amsterdam oggi è la moschea Fatih. L'ultimo caso nel giorno di Pasqua, quando a Groningen una chiesa protestante è stata convertita in moschea. La vera domanda è perché è così facile integrare negli Stati Uniti e falliamo in Europa, dice Fritz Bolkestein, teorico liberale e commissario europeo sotto Romano Prodi, accogliendoci nella sua casa sul fiume Amstel. 18 anni fa, quando sul giornale Volkskrant uscì un suo articolo sull'Islam, Bolkestein fu tacciato di razzismo e accusato di essere un mercante di paure. Era profetico, ma all'epoca non si parlava di Islam. Stava crollando l'Unione Sovietica, l'economia olandese non era mai cresciuta tanto quanto in quegli anni, si stava facendo la storia delle multinazionali. Nasceva la Endemol del Grande Fratello, l'80% della popolazione aveva un lavoro fisso e la seconda generazione di musulmani da Marocco, Turchia e Indonesia stava facendo grandi passi in avanti. Poi, fra il 2002 e il 2004, 2 omicidi legati all'Islam misero fine a quel sogno sinistro e dolciastro. Le uccisioni di Pim Fortuyn e Theo van Gogh furono i casi di violenza politica più clamorosa dai tempi di Jan e Cornelius de Witt, i 2 amici di Spinoza fatti a pezzi dalla folla. Ma accadeva 3 secoli fa. Questo è l'unico angolo d'Europa dove non si scatenarono pogrom, dove Rembrandt dipingeva un Gesù con i tratti dell'ebreo sefardita, dove Spinoza diventava profeta di ateismo e Marx indagò le radici del capitalismo. Ma quel paese non esiste più e le città olandesi si stanno trasformando in ghetti etnici a cielo aperto. Oggi uno dei biglietti da visita più diffusi è questo. Nome? Geert Wilders. Peccato? Derisione dell'Islam. Punizione? Decapitazione. Ricompensa? Paradiso. Bolkestein è noto come il leone dei liberali. Ex ministro della difesa, presidente dell'Internazionale Liberale e fustigatore della burocrazia, Bolkestein è stato per 10 anni il mentore di Wilders. L'Olanda non fa parte di un destino diverso da Inghilterra, Francia, Germania e Italia, che ha legami speciali con il Medio Oriente, ci dice Bolkestein. Il multiculturalismo è letale nell'idea che la cultura è di plastica, malleabile, quando invece è rigida. Nel 1991 scrissi che l'integrazione non avrebbe funzionato se i nostri valori avessero avuto una conflagrazione con quelli degli immigrati. Fui chiamato razzista, odiatore dell'Islam. Oggi in Olanda si parla di limitare la libertà di parola per evitare i conflitti. Il numero di immigrati è critico. 2 milioni di musulmani in Olanda. La precedente minoranza, gli ebrei, erano 100.000. Una grande differenza. Ci sono quartieri dominati dai marocchini e segregazione fortissima nelle scuole. Bolkestein critica la concezione formalista della democrazia. Un paese, una cultura, dovrebbe essere così. C'era un comico americano che disse: «Ho visto il nemico e siamo noi». È questa l'Olanda. Avremmo dovuto insistere su alcuni valori non negoziabili come la libertà di parola, l'eguaglianza uomo-donna, la separazione di Stato e Chiesa e così via. Sono le rocce della libertà che trovi nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. L'ex eurocommissario Fritz Bolkestein è stato il maestro, oltre che di Wilders, che oggi critica, anche di un'altra estremista liberale come la dissidente somala e apostata Ayaan Hirsi Ali. Abbiamo bisogno di persone come Ayaan. La adoro, la sostengo. È uno scandalo che lei, un membro del Parlamento, avesse bisogno di una protezione totale, così come Wilders. È una situazione scioccante. Jaffe Vink è l'ex direttore del settimanale Opinio e una firma storica del quotidiano cristiano di sinistra Trouw. È stato lui a pubblicare il primo articolo di Ayaan, 2 mesi dopo l'attentato alle Torri Gemelle di New York. Parliamo di culture, ma non ne vediamo le differenze, ci spiega Vink nella sua casa di Amsterdam. Vink parla di disintegrazione dell'Olanda multiculturale. Wilders ogni giorno potrebbe fare la fine di Theo van Gogh e Pim Fortuyn. Nella storia passata c'è stata così tanta violenza e sangue che abbiamo pensato che fosse lontana. Oggi la storia è in mezzo a noi. È in corso una metamorfosi completa delle nostre città e il successo di Wilders passa dal mutamento della strada. Il multiculturalismo ha dimenticato i fattori educativi, religiosi, culturali, pensando soltanto a quelli sociali. Negli ultimi 20 anni ci siamo disinteressati delle minoranze. La chiamavamo tolleranza, ma era indifferenza. Mia figlia frequenta una scuola al 60% di immigrati. Il primo passo all'apartheid è portare i figli in un'altra scuola, poi si cambia casa. È segregazione, ma per 30 anni non ne potevamo parlare. Leon de Winter è uno degli scrittori olandesi di maggiore successo. Fino a pochi anni fa era una specie di provos, i provocatori che qui ad Amsterdam, ben prima del 1968, facevano happening, evento. Poi De Winter ha cambiato idea sul fallimento olandese. Vedo ogni giorno le conseguenze del relativismo culturale e della correttezza politica che ci impedisce di essere chiari, critici e orgogliosi sui nostri valori e la nostra civiltà. Spiega al Foglio De Winter. È una crisi del nostro sistema e di ciò che siamo. La grande popolarità di Wilders sta dando voce a sentimenti condivisi dalla popolazione, costringendo il resto dei partiti a parlare di immigrazione e di Islam nel sistema giudeo-cristiano. Wilders riveste quindi un ruolo molto prezioso. L'Olanda è costretta a essere all'avanguardia in questi problemi, perché abbiamo avuto 2 omicidi politici in pochi anni, una cosa che non si vedeva da secoli in un paese molto pacifico e con gerarchie rigide. Quelle morti hanno avuto come effetto, contrariamente allo scopo degli assassini, la sollevazione di un velo. Abbiamo scoperto di aver educato 2 persone a uccidere, per mettere a tacere gli oppositori. Dopo lo shock, si è aperto in modo straordinario lo spazio della discussione sull'Islam. Ho appena letto l'editoriale di un giovane laburista a favore della limitazione dell'immigrazione musulmana. Se lo avesse scritto 2 anni fa, sarebbe stato bandito dai socialdemocratici. Invece oggi esprime idee simili a quelle di Fortuyn. Nessuno oggi in Olanda può far finta che il problema non esista. Non possiamo più chiudere gli occhi. Quello di Paul Cliteur, docente all'Università di Leiden, la più antica e prestigiosa di tutta l'Olanda, è un punto di vista affascinante perché proviene da un ateo e liberale. Cliteur è stato l'insegnante di Ayaan Hirsi Ali e 6 mesi prima dell'uccisione di Van Gogh, intuendo che la critica dell'Islam stava diventando pericolosa, decise di sospendere ogni intervento pubblico. Il relativismo postmoderno ha fallito nel capire il fondamentalismo religioso islamico. C'è come un'estraniazione liberal che finisce per accettare la teocrazia islamica e per assorbire la sharia all'interno della propria decadenza. Cliteur spiega così il paradosso della liberazione sociale idolatrata in Olanda. 30 anni fa era difficile essere a favore dell'emancipazione sessuale ad Amsterdam. Il progressismo la faceva da padrone. Oggi l'omosessualità è un problema con i musulmani. E in nome della stessa ideologia della tolleranza si può essere tacciati di discriminazione contro i musulmani che odiano i gay. Alla fine si finisce per essere contro tutto ciò che ha prodotto di buono l'illuminismo. Il professor James Kennedy è un liberal americano che insegna all'Università di Amsterdam. Alcuni anni fa scrisse uno studio pionieristico dal titolo Building New Babylon. La maggior parte di noi, compresi gli americani, pensa che l'Olanda sia un paese libertino e libero. Ma non è così. È una nazione legata al concetto di ordine pubblico. Le cose non devono sfuggire di mano. Non vogliono che ci siano pratiche illegali. Così è per l'eutanasia, la prostituzione, la droga. Come risultato, c'è stata un'autentica indifferenza verso gli altri. È un paese pluralista. e per evitare i conflitti ha preferito ignorare gli altri. Al nostro arrivo il comune di Amsterdam ha approvato le aree gay. L'insolita indicazione compare su cartelli installati agli ingressi di un parco di Amsterdam per fare sapere dove i gay possono andare a cercare un partner e appartarsi. È anche a questo tipo di follie ideologiche che pensa Naed Selim quando parla di negativismo olandese. Parlare dell'islamizzazione della società è un tabù in Olanda. E per islamizzazione non intendo l'aumento del numero di musulmani o la conquista militare del paese da parte dei musulmani, ma un processo in cui la religione inizia a dominare ogni aspetto della vita. La partenza della mia amica Ayan è stato un giorno molto triste per l'Olanda. Oggi ci sono pochissime voci di donne islamiche nel paese. Gli olandesi amano credere che non vi siano differenze fra Islam, giudaismo e cristianesimo. Pensano che le religioni siano tutte uguali. Ma l'Islam è anche sistema sociale e politico. Sono furiosa per come stiamo gettando al vento i diritti delle donne. La cosa più stupida che la democrazia possa fare è relativizzare se stessa. Stiamo svendendo i diritti umani. Se l'islamizzazione continuerà, non vedo futuro per l'Olanda. Questa non è più tolleranza, è oppressione. Per Andreas Kinneging, accademico e figura di riferimento della cultura cattolica, si è creata una sorta di apartheid, come in Sudafrica. Se il trend demografico continua, nel giro di qualche decennio i musulmani saranno in maggioranza. L'Olanda è a un paio d'ore d'aereo da Roma, i nostri problemi sono i vostri problemi. E la prospettiva nazionale non ha più senso. Sono pessimista sul futuro della civiltà europea. Non so cosa sia andato storto, ma siamo deboli. E loro pretenderanno di cambiare le regole della democrazia. C'era una volta il paese più libero d'Europa. Quel paese oggi non esiste più. E il suo politico di maggior successo è anche quello più scordato di tutto l'Occidente. I minatori erano soliti portare un canarino sottoterra per vedere se c'era aria velenosa, racconta Murray al Foglio. Per me l'Olanda è come questo canarino. È un paese liberal per eccellenza, ma è avanzato e interessante da studiare anche per il fatto di avere un Islam totalitario e antidemocratico. L'Olanda, per prima in Europa, ha sperimentato cosa accade quando avviene una collisione. Le vittime si chiamano Fortuyn, Van Gogh e la mia amica e collega Irsi Ali. Secondo Leon de Winter, il multiculturalismo è stato un fallimento soprattutto per gli immigrati. Ha illuso i musulmani che fosse tutto uguale, mentre abbiamo scoperto che non si può trapiantare la cultura e la religione del Marocco nel cuore dell'Olanda e nell'Amsterdam ipersofisticata. Volkert van der Graaf, l'assassino di Fortuyn, pensava che gli animali avessero gli stessi diritti degli esseri umani e che una cultura fosse uguale a un'altra. Ecco che cosa ha prodotto il relativismo, la negazione della civiltà umana, basata sulla capacità di discriminare. La discriminazione è l'essenza della civiltà. Vogliono invece imporre alla società l'idea che è tutto uguale, così come la presunzione che l'Islam è uguale alla cristianità. Sono due diversi concetti di Dio. Il multiculturalismo si basa su questa presunzione. Avete ascoltato la lettura di alcuni brani dall'articolo di Giulio Meotti, L'apartheid multiculturale, dal Foglio del 12 maggio. Letture di Radio 24. Il successo del British National Party in Inghilterra è la dimostrazione che anche nei paesi più liberali si inizia a sentire l'esigenza di mettere un freno all'immigrazione selvaggia. Cosa accomuna il crollo dei laburisti a Londra, la crisi dei socialisti francesi e dei socialdemocratici tedeschi e il modesto risultato del PD a Roma? E cosa collega il successo di Sarkozy e quello di Cameron con la crescita della Lega nel nord Italia a scapito di Berlusconi? Una sola questione può spiegare gli spostamenti elettorali in tutta l'Europa: le politiche dell'immigrazione. Forse, per misurare il peso di queste politiche sugli orientamenti elettorali del voto per il Parlamento di Strasburgo, conviene partire da Londra, dove per la prima volta si assiste all'affermazione del British National Party di Nick Griffin. Un razzista a Westminster? Nel paese più multiculturale e multirazziale che si conosca in Europa? Non ancora, visto che per la Camera dei Comuni e per quella dei Lord si voterà l'anno prossimo. Ma Griffin, che se la ride a essere definito razzista, ha, come dire, prenotato il posto. Che male c'è a dire che per i clandestini qui nel Regno Unito non c'è posto? Li si prende e li si caccia fuori, con le buone o con le cattive? Esordisce il leader del BNP in un'intervista al Corriere della Sera. E alla domanda se non si tratti di ipotizzare una sorta di pulizia etnica nel paese che più di tutti è abituato allo scambio tra regole severe e integrazione degli immigrati, risponde: pulizia e basta! La gente è stufa degli islamici che, dopo aver messo le bombe nella metropolitana di Londra, vengono a insultarci. La gente è stufa degli orientali che rubano il posto di lavoro, stufa degli stupratori e dei violenti che insudiciano le nostre strade. Non è razzismo, è la verità. Fa davvero impressione sentire parlare così il leader di un nuovo partito inglese che sembra in tutto e per tutto aver mutuato dalle destre xenofobe austriache i propri argomenti. L'Inghilterra è il paese in cui certo un immigrato può essere ammesso solo a determinate condizioni, un lavoro, la disponibilità a imparare l'inglese, ma gode allo stesso tempo della massima libertà religiosa e culturale e delle più forti protezioni per le minoranze. Gli argomenti di Griffin sono tali da far sembrare moderato anche un ultraleghista come il ministro Calderoli. Eppure, se il BNP si è fatto strada all'interno di un elettorato tradizionalista come quello inglese, una ragione ci deve essere. È la stessa ragione, a pensarci bene, che fece gridare scandalo quando Sarkozy definì rifiuti gli emigrati che avevano messo a fuoco le banlieue parigine e conquistò così la periferia francese, sotto gli occhi stupiti di Ségolène Royal e del gruppo dirigente socialista, che pensava ancora di opporre ad argomenti così rudi un'impostazione solidarista. Ed è la stessa convinzione che ha visto nel Parlamento italiano il ministro leghista Maroni difendere la parte più dura del decreto sicurezza, le ronde metropolitane, l'obbligo di denuncia dei clandestini per medici e presidi, l'allungamento dei termini di detenzione nei centri di accoglienza. Oltre, naturalmente, alla logica del respingimento con cui è stata bloccata la rotta degli immigrati tra Libia e Lampedusa. Dice ancora Griffin, rivolto ai suoi futuri colleghi, che chiama i furfanti di Westminster: troppa tolleranza. Ora si pensa più alla rieducazione che alla prevenzione e alla repressione. Noi ribaltiamo il concetto. Occorre la mano forte, i criminali devono essere puniti e schiaffati in galera. Anzi, siccome le prigioni sono piene, vanno tenuti con i ceppi elettronici ai piedi. Ceppi, che chiarisce, scaricano scosse elettriche immobilizzanti se solo provano ad uscire dalla porta. A colpire è questa escalation di argomenti che in Italia, pur ben lontana dal raggiungere questi eccessi, ha già ricevuto varie sanzioni dalla Chiesa. E ancora, è il rischio che di spirale in spirale, proposte come queste possano farsi strada come promesse, rivolte a un elettorato spesso a ragione esasperato dai comportamenti più intollerabili degli immigrati. Ma l'assenza più marcata su questo terreno, almeno dal tentativo di avanzare soluzioni diverse, è quella del centro-sinistra. Ogni volta che un sindaco, si tratti di Domenici a Firenze o di Chiamparino a Torino, alza la voce per dire che non tutto nella politica di durezza con i clandestini è sbagliato, dalla pancia democratica o dal centro-sinistra si alza un gorgoglio inarrestabile. Senza che nessuno, va sottolineato, faccia ipotesi alternative. Così, mentre la Lega fa il pieno di voti al nord, anche al centro, in Emilia e in Toscana, nel serbatoio classico dei voti rossi o rosa, qualche macchia di verde o di azzurro comincia ad apparire. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Anna Chimenti, Vi spaventa la Lega? Sentite cosa dice il britannico Griffin, dal Riformista del 9 giugno. Una recente ricerca sul pianto dei neonati ha permesso la creazione di un archivio che cataloga i vagiti e ne svela il messaggio in codice. I neogenitori che devono affrontare il pianto di un neonato, prima o poi si chiederanno se non esista una formula magica per farlo smettere. Dopo aver tentato tutto o quasi, il livello di sopportazione tende a diminuire in maniera inversamente proporzionale alla durata del pianto. Ma c'è anche chi il pianto dei neonati lo ascolta volentieri, per lavoro e per passione, cercando di analizzarne le armonie musicali e scoprirne i significati espressivi. È il caso della ricercatrice Daniela Lenti Boerio, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica all'Università della Valle d'Aosta. Nata 60 anni fa a Milano, medico specializzato in anestesia e rianimazione, si occupa da anni di psicobiologia del neonato umano. E di pianti neonatali ne ha ascoltati e studiati a centinaia. La mia ricerca è iniziata nel 92 all'ospedale San Paolo di Milano, spiega, con un archivio di circa 100 vagiti registrati in varie situazioni della giornata del neonato. In Valle d'Aosta abbiamo registrato il pianto di 10 neonati nel loro ambiente a casa. Il progetto è stato realizzato con finanziamenti dell'FSE, Fondo Sociale Europeo, e dei PRIN, progetti a rilevanza nazionale. Nelle prime settimane, con il pianto, il bambino esprime tutti gli stati d'animo. A 2 settimane di età, il pianto rappresenta circa il 97% dei suoni emessi. Dal momento che il pianto del neonato possiede caratteristiche di tipo ritmico, melodico e timbrico, se ne possono considerare le caratteristiche anche da un punto di vista proto-musicale. Con l'aiuto di 40 musicisti dell'Institut Musical di Aosta, abbiamo analizzato in via preliminare gli aspetti ritmici, definiti come unità sonore nel tempo, melodici e frequenziali, dei pianti di neonati maschi e femmine registrati nei primi 4 giorni di vita in 3 diversi contesti di stimolazione. Il dolore in seguito ad un prelievo ematico di routine, il movimento improvviso generato nel corso di un esame neurologico e la fame 30 minuti prima della poppata. Risultato: il pianto dei neonati è un suono non gradevole, disarmonico, ai limiti dell'avversione. Questo spiega anche perché il pianto rappresenti l'elemento scatenante dell'abuso sui minori, in genere da parte della madre, aggiunge Lenti Boerio. Da un questionario somministrato ad alcune madri in Belgio è emerso che molte di loro avevano cercato di far smettere di piangere il loro bambino soffocandolo con il cuscino o schiaffeggiandolo. Ogni singolo neonato piange in modo unico, utilizzando in modo privilegiato una combinazione personale dei parametri acustici. Le ricerche condotte dall'Università di Aosta hanno dimostrato che è possibile discriminare il pianto dei neonati a livello individuale utilizzando una procedura statistica sui dati numerici misurati su ogni singolo vagito. Prestando attenzione al ritmo, all'intensità e alle pause, si può arrivare a distinguere rapidamente un pianto di fame da uno di dolore, di stanchezza o di richiamo, assicura la docente, che aggiunge: ad esempio, nel pianto per stanchezza, il bambino inizia a piagnucolare piano per poi intensificare il timbro, fino ad un pianto di forte spossatezza. Il pianto da fame, invece, è fatto di piccoli singhiozzi, simili a versetti o sospiri, accompagnati da un movimento delle labbra come per voler succhiare. Si sa ancora molto poco su come le caratteristiche del pianto si modifichino a mano che i bambini crescono. I risultati dimostrano comunque che non è affatto vero che i piccoli presi in braccio ogni volta che piangono crescano viziati e lamentosi, conclude la ricercatrice. Anzi, se nei primi 3 mesi di vita si tiene spesso il neonato tra le braccia, lo si culla oppure lo si appoggia al petto dentro al marsupio, i pianti man mano diminuiranno di intensità e di durata. Non diminuiranno invece se lo si lascerà piangere a lungo senza intervenire. I genitori dei neonati prendano nota. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Laura Secci, Senti chi piange, ecco il dizionario dei neonati, dalla stampa del 9 giugno.